Wall Street, I viaggi del lupo. Bene bene, oggi è venerdì 5 maggio e siamo tornati in onda. Queste Wolf Trips con me, Domenico Biancardi. Siamo in onda su Radio Lupo Solitario. Stasera avremo come ospiti Murmur Mori. Faremo un'intervista più tardi e andremo ad ascoltare un po' di bella musica nuova. Partiamo subito molto soft, molto tranquilli con Diane e il pezzo What Fiction Is For. Sono i Diane con Watch Fixture Is For. Mi confondo sempre quando dico questo titolo di questo brano. Andiamo avanti con la musica di Wolf Trips. Continuiamo con Floor Send My Love. Questa è una cover di Adele. Il genere si gira un po' sull'indie elettronico, neanche troppo esagerato. Abbiamo già ascoltato in Wolf Trips un pezzo molto molto particolare. Stasera con Wolf Trips facciamo un bel viaggio tra la indie elettronica e l'hip hop elettronico. Passiamo ora a Gold Link. Lui è D'Anthony Carlos e viene da Washington. Inizia la sua attività nel 2013. Questo brano è veramente molto molto bello e mixa molto l'hip hop, l'R&B e la musica elettronica. Andiamo ad ascoltarlo con Pray Every Day. My black Nina in the sky, shoot it high. Maybe hitting an angel, watch her fall down. Free the hope, I said free the guys on my life. Been addicted to the pussy, that's my vice, yeah. Drinking, drinking, drinking all my problems. I don't need nobody, I just need my bottle, that's for certain. Put the pussy on a pedestal. I don't got no industry friends, cause I'm rude. So I tell myself, pray every day, say a grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away, fam. Yeah. Pray every day, say a grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away, fam. Yeah. Pray every day, say a grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away, fam. Yeah. Pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away, fam. Yeah. Mama pray every day, head straight. Mm-hmm. Get my hair right, wear my horse stick. You know you gon' have to keep a bad bitch. Uh-huh. You know that the younger niggas look at you. Vibe with a nigga, yeah, they feel you. Tattoos from my set, you know I had to. But the music business think that you gon' take our chance, nigga. Uh-huh. Past con, yeah, I'm be the man, cool. DC, yeah, you know they fucking proud of you. Ballin' out, shout out Luciano, yeah, we're flying out. Out this motherfucker, proud to be up in the White House. White bitch, talking about she love her niggas blacked out. From the north, Blubby in the south. Went to Big House, sweet from sleeping up on mama couch on mama house. And mama gave her mama slave, and now her son is getting paid. And Baba was a Rolling Stone, now her son on Rolling Stone. And all I said was shit. Look, pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away from yeah. Pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away from yeah. Pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the demons away from yeah. Pray every day, say your grace, nigga. Keep the haters, keep the haters, keep the haters, keep them, keep them. Lord, I pray for wealth and power over all these motherfuckers. For the DMV to reign for many moons. Fuck these rappers, fuck these labels, fuck these bitches, you hear me? They kill my nigga and I pray for revenge. Control me and use me the way you would allow me to. Amen. E lui era Gold Link d'Anthony Carlos. Questo è Wolf Trips e continuiamo il nostro viaggio nella musica elettronica, nella musica underground. Ora andiamo ad ascoltare BZP con il brano Genie, un artista che abbiamo ascoltato già tempo fa. Lui è il direttore artistico dell'etichetta, non mi ricordo più il nome, e comunque questo brano richiama molto l'house e il funk elettronico. Andiamo ad ascoltarlo subito con Genie.

E loro sono Casbo con il brano Found You, un brano elettropop un po' molto alternativo. E in linea adesso dovremmo avere i nostri ospiti della serata, e loro sono i Murmur Mori. Ci siete? No, non li sento. Vediamo di qua se riusciamo a intercettarli. No, niente, niente, adesso avremo qualche problema tecnico, lo risolveremo al più presto. Andiamo ad ascoltarci adesso un altro brano, loro sono i Panama con Hope for Something. give you up. It's heavy. Queste Wolf Trips, torniamo in onda dopo aver messo un po' di brani, tra cui uno nuovo, Panama con Hope for Something, e loro erano i Powers con il brano Heavy. Ora proviamo a vedere se riusciamo a metterci in contatto con i nostri amici Murmori, anche se abbiamo avuto un po' di problemi questa sera. Mi sentite per caso? Sì, ci senti? Oh, adesso sì. Perfetto, perfetto. Abbassate un attimino magari il... No, niente, perché non sento un po' di ritorno, ma vabbè, non... È l'altoparlante, lo tolgo? Sì, sì, no, sì, sì, sì. Sì, sì, perché la sento il ritorno in cuffia. Oh, oh, perfetto, se l'abbiamo fatta. Sì, sì, adesso perfetto. Ah, ecco. Allora, voi siete Murmori, Murmori. Un nome molto particolare, devo dire la verità, quando avete mandato la demo mi ha subito colpito. Presentatevi brevemente, diteci un po' chi siete, da dove venite, insomma. Allora, noi siamo inizialmente in due, principalmente io, Mirko e Silvia, e abbiamo praticamente dato vita a questo progetto poco dopo esserci conosciuti, insomma. Io okay. Nella vita insegno chitarra classica, privatamente. Silvia, invece parlo anche per lei perché purtroppo ho dovuto togliere l'altoparlante, quindi... Sì, mi spiace. Comunque qui, eh? Ah no, eccoti. Sì, perché sennò ritorna la voce. Lei invece fa la fotografa e queste sono le due nostre attività principali. Il nome Murmuri che tu dicevi che è particolare in realtà ha dentro un sacco di significati, cioè noi abbiamo voluto inserire dentro il fatto che... Allora, principalmente Murmur è un demone della mitologia cristiana. Legato alla conoscenza. Mori invece significa bosco in giapponese. Ah, quindi avete unito l'idea con anche del bosco. In inglese significa anche mormorio, e quindi si può dire che Murmur Mori possa essere inteso come il bosco di Murmur, oppure il mormorio del bosco, diciamo. Bello, mi piace. Sì. Molto inoltre bello. Ricorda anche un pochettino la locuzione del Memento Mori, che sì. È una filosofia che a me piace moltissimo come idea. Diciamo che siamo il mormorio delle cose dimenticate. Ecco. Molto molto bello il nome, mi piace veramente molto. E quindi mi dicevi che tu suoni e invece lei praticamente fa la fotografa. E un po' il vostro background musicale, cioè a chi vi ispirate, quali sono magari i vostri ideali musicali, ecco, visto che gli ideali del progetto li ho ben capiti. Allora, principalmente io credo che ci siano un sacco di cose a parte la musica che ci ispirano, perché okay. Sostanzialmente spesso noi abbiamo la fortuna di poter stare in una... Noi viviamo quasi praticamente in un paesino, in una valle in Piemonte, mm-hmm. E lì girando un po' nei boschi capita spesso che magari ci fermiamo e con la chitarra iniziamo a suonicchiare, così nascono principalmente le nostre canzoni. Ci ispiriamo principalmente a un sacco di musica antica, principalmente medievale, fino ad arrivare al folk degli anni 70, insomma, ecco. Quindi diciamo che il massimo, cioè la vostra massima ispiratrice è la natura, possiamo dire. Sì, direi proprio in un certo senso. Direi proprio di sì, anche perché comunque alla fine, cioè il messaggio principale, noi utilizziamo un po' la musica come mezzo, però il messaggio principale che cerchiamo di portare avanti è una sorta di sensibilizzazione nei confronti della natura, delle tradizioni. Cioè il nostro ultimo disco, che si chiama Radici, sì. Vuole far un po' diciamo provare a dare questo punto di vista alle persone, di capire bene quali sono le loro radici proprio come una pianta, per poter poi tendere verso tutte le altre, cioè conoscere le proprie tradizioni, imparare quindi anche ad accettare tutte le altre, insomma questo è un po' il parallelo. Mi piace molto anche l'idea. Infatti parlando con te particolarmente mi dicevi che i suoni, effettivamente alcuni suoni, alcune idee le prendete proprio dai boschi, dai vostri giri in montagna, ecco. Spesso in quei pomeriggi di cui ti parlavo prima, ovviamente quando esce qualche momento musicale bello lo registriamo e ovviamente vengono inseriti anche tutti i suoni ambientali, certo, del bosco che ci sono, che sono caratteristici. Li inseriamo nei nostri dischi per bloccare un po' il momento, cioè se ci capita magari di visitare un sito archeologico e lì registrare, cioè ci nasce una canzone, cerchiamo di trasmettere anche quello che è il momento in sé, cioè riportare un pochettino l'atmosfera che noi abbiamo vissuto. Poi ovviamente non può essere uguale, perché ammettiamo, però al tempo stesso noi insomma proviamo a fare questo, ecco. Sì, un po' come facevano diciamo i Depeche Mode, però loro erano più sull'industria, voi invece più sulla natura, ecco. Sì, beh, direi proprio sul folk e sulle tradizioni popolari in generale. Sì. E volevo chiedervi poi un altro paio di domande, poi vi libero, sì, visto che vi ho trattenuto anche fin troppo. E se vi esibite da qualche parte prossimamente, se vi possiamo sentire in qualche locale, sì, o magari, non lo so, al momento non avete ancora nulla in ballo, non lo so, ditemi voi. Sì, ce n'è un po' di concerti. Ah, okay. Sì, saremo il 13 a Bologna, a XM. Mm-hmm. E il 21 maggio invece a Milano, come si chiama il posto? Lavatrici Bollatesi. Ah, non conosco. L'11 giugno a Marzabotto. Ah, ok. Quindi girate molto comunque dalle zone, dalle parti di Bologna, ecco. Sì, noi comunque stiamo lì molto spesso. Va bene. Io ho scoperto anche che uno di voi è qua vicino alla sede della radio. Sì, infatti, sì. Prossimamente magari ti invito a farti un giro qui in radio e magari continuiamo la nostra chiacchierata direttamente di persona. Volentieri, guarda, sarebbe veramente una figata. Allora, io vi ringrazio, e vi saluto e ci rivedremo sicuramente presto. E sì, adesso andiamo a ascoltarci il vostro brano, estratto proprio dall'album Radici, e il brano è intitolato proprio Radici. Radici, esatto. Ciao. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Sedetevi comodi e alzate il volume. Per un'ora era un'ora di esplorazione musicale. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Sono i Two Feet. Continuiamo un po' con la musica di Wolf Trips. Prima abbiamo avuto i Murmur Mori, che ci hanno dato un po' un tocco molto molto underground al programma. Ora continuiamo con Nombe, Freak Like Me, un brano che abbiamo già ascoltato settimana scorsa, ma ha una, veramente una bella carica, un mix tra elettronica e rock al punto giusto. Lui è Nombe con Freak Like Me. She won't tell nobody what goes on in these walls. If they talk, they probably tell you all about love. So my soul help us all. And it's close to a fight in the midst of neon lights. And my neighbors they greet me with bags under their eyes. You know why? My baby's a freak like me, and she knows just what I like. She carries all the keys to the places that no one dares to find. She won't tell nobody what goes on within these walls. If they talk, they probably tell you all about love. Lui viene da Los Angeles, Noah McBeat, in arte Nombe, con questo brano Freak Like Me. Non fa parte di nessun album, è un singolo speriamo che uscirà presto un album che raccoglie un po' tutti i suoi singoli, che mi piacciono veramente molto, e sono anche altri brani molto interessanti. Ora continuiamo il nostro viaggio nella musica underground con una novità. Lui è Droele e questo brano qua si chiama See Through Me. Sono un duo di DJ olandesi, l'etichetta è Beatbeard di Rotterdam, esattamente siamo Vincent Rogers e Ayn Hammers, in arte Droele con questo brano che abbiamo ascoltato, See Through Me. Continuiamo il nostro viaggio nella musica underground, ingraniamo un po' il ritmo, ingraniamo una marcia in più e andiamo ad ascoltare un brano di SNBRN e Dan N. Coyote Kiss. Questo brano si chiama Show Me, abbiamo già ascoltato settimana scorsa e ha davvero una bella carica. Il genere del brano mi è ancora un po' oscuro, diciamo che potrebbe essere associato un po' alla Future House EDM, però non è che ci calza proprio a pennello. Andiamo ad ascoltarlo. E questo era il brano di SNBRN. Tanto che abbiamo un'invasione di zanzare qua nello studio e stiamo cercando di debellare. Continuiamo il nostro viaggio. Questo è un brano di Flume, che è uno dei miei artisti preferiti, e però non è il suo originale, è il remix di Grammatic e Ramzoid. Tra l'altro di Grammatic abbiamo già ascoltato altri remix nel corso delle altre puntate, e lui è un DJ sloveno che però vive negli Stati Uniti. Andiamo ad ascoltare quindi Flume con Wolfuck, remix di Grammatic e Ramzoid. Questo era un remix veramente bomba di Grammatic Ramzoid. Il brano era di Flume col nome Wolfuck, non voglio sapere cosa significhi, ma ha un nome un po' particolare, ecco, mettiamola così. Continuiamo un po' con questo andazzo che abbiamo preso di questa musica dubstep elettronica molto molto interessante, con un altro remix di Joey Mason. Il brano è Stalgia, o Stalgia, non so come si pronuncia. Il brano è BDY, remix di Joey Mason. Andiamo appunto ad ascoltarlo. sulle note di questo remix di Joey Mason continuiamo il nostro programma Wolf Trips. Ormai siamo arrivati un po' alle battute finali, abbiamo ancora un paio di remix molto interessanti, molto belli da ascoltare. Il prossimo remix di Brad, RMNHMR Remix, purtroppo il nome del remixer è questo, spero sia un acronimo perché pronunciare questo nome è veramente un mistero. Loro sono gli Adventure Club con il brano Bread. Dopo questo remix di Brad andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di oggi e, come dicevo prima, abbiamo l'ultima serie di remix. Lui è Naderi con questo remix di Big Gigantic, All of Me. Possiamo dire che di Naderi abbiamo anche un po' di informazioni. Lui è di Sydney, dell'Australia, e inizia la sua attività nel 2014. I generi più che altro che produce sono Future House, EDM, e ha fatto molte collaborazioni importanti come Flume, Skrillex e altri artisti, come anche proprio Big Gigantic. Andiamo proprio ad ascoltarlo, quindi è Big Gigantic, All of Me, remix di Naderi. Back in the day, I used to say, oh no. You really down to pay the cost. Reverse the role, you can play the boss. Already know my, already know my vision is faded. I try to evade it, but can't. I know you far from a saint, but I keep lying to me, cause I've been dying to me. And it felt like I followed you out in the street, and I promise you all that I know. Everywhere that my mind goes, elevated, heart strong, but my hair faded. Way back when we first dated, I'm gone now. Had to go cause I'm on now. Baby, I can see. Baby, I can see. Baby, I can see. Baby, I can see. Del lupo. E anche per quest'oggi è tutto, abbiamo completato una bellissima puntata, risalutiamo i Murmurmori che abbiamo avuto come ospiti telefonici, spero a breve anche in diretta dallo studio di Radio Lupo. Poi volevo salutare DJ Tinto o Davide, che verrà anche lui presto a fare un piccolo mixato molto interessante. Salutiamo anche qualcun altro che non si vuole far vedere. Ah, giusto, giusto, mi ricorda che sarà un mixato, tra l'altro fatto con i giradischi, quindi un po' vecchio stile, vecchia scuola. Poi salutiamo qualcun altro che non si vuole far vedere. No, non la salutiamo, perché sennò dopo mi picchia. E niente, rinnoviamo l'appuntamento a settimana prossima con tante nuove novità a Wolf Trips. E vi ricordo anche che il podcast sarà disponibile poi in ascolto per riascoltare la puntata su Mixcloud, sicuramente da domenica in avanti. Però oggi è tutto, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao.